giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Picchia la compagna e le procura fratture alle costole, un trauma cranico, denunciato a Trieste un uomo di 44 anni, gli è stato applicato il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alla donna. Minacce di morte per la sindaca di Monfalcone Cisint sui social e in un disegno ritrovato nei bagni di Fincantieri, presa di mira la decisione di chiudere i centri di preghiera islamica. Questura e prefettura decideranno sul rafforzamento delle misure di sicurezza, probabile la scorta. Oggi pomeriggio l'ultimo addio a Matteo Pittana, il ventenne morto nel terribile incidente stradale a Gemona mentre era in auto con due suoi amici. 4 anni fa il Covid arrivava in regione, la prima segnalazione a Gorizia. Negli anni la malattia ha causato oltre 6.500 decessi. Le valutazioni dei primari di terapia intensiva e infettivologia dell'ospedale di Udine. Nel 2023 la produzione del comparto del legno in regione è calata di oltre il 10%, contrazione del 22% dell'export. Confindustria intravede la luce in fondo al tunnel con la ripartenza degli ordini nel 2024. La patente a punti per i cantieri edili per garantire la sicurezza. Dibattito aperto nel settore, si va verso una distinzione tra imprese qualificate o meno. Rendere gli spettacoli teatrali più accessibili ai disabili mentali o sensoriali per i tanti anziani che amano il teatro ma fanno fatica a seguire, un corso a Udine per sensibilizzare gli operatori. Presentato il film dedicato a Margherita Hack, andrà in onda il 5 marzo su Rai 1, racconterà gli anni di formazione della scienziata toscana trapiantata a Trieste. Buon pomeriggio da Francesca Terranova e Andrea Covri in studio per questa edizione del giornale radio regionale. Ha preso a pugni la compagna procurando le fratture alle costole e un trauma cranico. La donna è riuscita a fuggire e a chiamare i soccorsi. È successo a Trieste nella notte di San Valentino. Non era la prima volta che veniva picchiata. Dopo la denuncia, all'uomo, un 44enne, è stato applicato il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alla vittima. Ha trascorso la serata di San Valentino con il compagno e una coppia di amici, ma è scoppiata una lite per motivi di gelosia. Quando gli amici se ne sono andati e la porta si è chiusa dietro di loro, l'uomo l'ha aggredita prendendola per il collo e spingendola sul divano. L'ha immobilizzata premendole un ginocchio sul costato e l'ha presa a pugni procurando le fratture costali e un trauma cranico per una prognosi di 41 giorni. Alla fine lei è riuscita a divincolarsi e a rinchiudersi nel bagno da dove ha allertato i soccorsi mentre l'uomo si è allontanato. La vittima, una donna di Trieste, è stata ricoverata la notte stessa all'ospedale di Cattinara. Il personale sanitario ha segnalato il suo caso alla Polizia di Stato che è intervenuta con una volante. È così emerso che l'episodio di violenza era un fatto tutt'altro che isolato nel corso della relazione durata circa 5 anni. Il compagno, un 44enne, era inoltre già destinatario di un provvedimento di ammonimento del questore per fatti analoghi. Gli episodi sono confluiti nel fascicolo d'inchiesta già aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e il PM titolare dell'inchiesta ha richiesto una misura cautelare accolta dal GIP con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati fino a 500 metri, il divieto di comunicazione e l'applicazione del braccialetto elettronico. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. 2 ragazzi residenti in provincia di Pordenone sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata, estorsione e furto aggravato nei confronti di un coetaneo. A disporre l'arresto con ordine di esecuzione della misura della custodia cautelare in un istituto di pena è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste su richiesta avanzata dal pubblico ministero titolare del fascicolo. Un'altra minorenne coinvolta nella rapina è stata collocata in comunità. I fatti risalgono a fine gennaio quando i 3 compresa fra i 14 e i 17 anni, 2 italiani e un albanese, a bordo della corriera partita da Pordenone diretta a Sacile, avevano minacciato con il coltello il ragazzo chiedendo di avere il giubbotto e le scarpe firmate che indossava. Gli hanno rubato anche le chiavi di casa, dove poi i 3 sono andati rubando dei gioielli d'oro. La vittima ha chiamato i carabinieri che hanno intercettato i 3 nei pressi dell'abitazione. La ragazza è stata subito fermata mentre i 2 ragazzi sono fuggiti e sono stati poi intercettati e fermati nei pressi della stazione delle corriere di Pordenone, ancora in possesso dei gioielli, riconsegnati ai legittimi proprietari che hanno formalizzato la denuncia di furto. La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un giovane italiano per il possesso a scopo di spaccio di 70 grammi di cocaina, 1,8 grammi di hashish e 1,9 grammi di marijuana. Le Fiamme Gialle lo hanno individuato all'interno di un fabbricato in fase di ristrutturazione a Sacile, nel quale erano stati segnalati anomali movimenti. La droga è stata ritrovata all'interno della cantina e del garage della struttura e nell'abitazione dell'uomo che ora si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, ha ricevuto minacce e intimidazioni allarmanti considerate attendibili da parte delle autorità competenti. Alla base le iniziative di Cisinta nei confronti dei centri di preghiera islamici della città, chiusi a causa di irregolarità amministrative. E ora la questura di Gorizia sta valutando un rafforzamento delle misure di sicurezza per la prima cittadina alla quale potrebbe essere affidata una scorta. Stamattina Cisinta ha convocato la stampa. Minacce di morte deliranti. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, mostra i messaggi che le sono arrivati agli indirizzi social personali. Provengono da siti appartenenti al filone islamico, sottolinea Cisinta. Tutto questo, aggiunge, dopo la decisione di far chiudere due centri di preghiera a Monfalcone per irregolarità amministrative, provvedimenti confermati anche dalla giustizia dopo i ricorsi presentati. Si tratta di un fatto grave, dice il sindaco della città cantierina, che si rivolge ad alcuni organi di informazione colpevoli di aver mistificato la realtà dei fatti, creando pregiudizio nei suoi confronti. È l'accusa di Cisint. Una strumentalizzazione per la volontà continua di aver voluto far rispettare le leggi e la sicurezza pubblica. Ho scoperchiato una pentola contenente grossi interessi economici, dice. Poi mostra anche un foglio contenente altre minacce lasciato in un bagno di Fincantieri, questa volta scritto in italiano. La mia battaglia va avanti, non farò nessun passo indietro, conclude Cisint. La sicurezza del sindaco di Monfalcone viene monitorata dalle forze dell'ordine con una vigilanza radiocontrollata. Potrebbe essere valutato dal Comitato per la Sicurezza un incremento delle misure con l'assegnazione di una scorta. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 15 nel Duomo di Gemona verranno celebrati i funerali di Matteo Pittana, il ventenne che ha perso la vita nell'incidente avvenuto nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 febbraio a Gemona. Secondo quanto riferito dall'avvocato ospitalieri legale della famiglia Pittana, le indagini del perito nominato dalla procura hanno consentito di chiarire che alla guida dell'automobile finita nel canale c'era il proprietario della vettura, anche lui ventenne, risultato ampiamente positivo all'alcol test. Insieme all'altro giovane coetaneo sopravvissuto era stato dimesso dall'ospedale dopo un breve ricovero per accertamenti. La procura indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'8 marzo ci sarà la perizia cinematica per accertare la dinamica del volo dell'automobile nel canale Ledra. 4 anni fa a Gorizia veniva registrato il primo caso di Covid in regione. Finora la malattia generata dal coronavirus ha causato oltre 6.000 decessi. A 4 anni di distanza siamo andati a Udine per fare il punto con i primari di terapia intensiva ed infettivologia dell'ospedale friulano. 4 anni fa, con i primi casi di Covid in Friuli Venezia Giulia, cominciava un periodo che per un paio di anni avrebbe condizionato la nostra vita, in particolare nei primi 2-3 mesi, quando fu imposto un duro lockdown. Sono morti migliaia in regione, 6.447 secondo i dati ufficiali, ma molti altri sono stati salvati grazie al lavoro del personale sanitario. I reparti di infettivologia furono tra i primi ad accorgersi di quello che stava per accadere. Lo dirigeva allora come oggi Carlo Tascini. La svolta l'ho avuta quando dei colleghi dalla Lombardia ci hanno mandato un audio per descrivere qual era la situazione del loro reparto e lì ci siamo molto preoccupati. Poi quando abbiamo visto i primi casi di polmonite anche noi siamo rimasti colpiti da questo. Quando è che vi siete accorti che era tutto finito? Ma noi abbiamo avuto la percezione di questo quando ci siamo resi conto di non vedere più le polmoniti, no? E quindi questo noi l'abbiamo più volte affermato. La terapia intensiva di Udine era stata scelta sin da subito come primo punto di riferimento regionale e il primo paziente arrivò da Caneva, il primario Flavio Bassi. Con questa polmonite di cui proprio non sapevamo come trattarla, quel paziente io me lo ricordo ancora, tra l'altro abbiamo avuto anche un successo dal punto di vista terapeutico ed è venuto anche a trovarci. Si salvò anche il primo di una serie di pazienti trasferiti dalla martoriata Lombardia, ma molti purtroppo non ce la facevano e per i medici di terapia intensiva fu pesante vedere morire così tante persone. Avere una mortalità del 30-35% è stata una cosa veramente terribile. 3-4 decessi al giorno era mai avvenuto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Infortunio sul lavoro a Talmasons con lesioni importanti a una mano. La persona è stata soccorsa questa mattina da un'ambulanza proveniente da Codroipo e dall'elisoccorso che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di Udine. È stabile, non ha perso i sensi. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. L'economia. Nel 2023 la produzione del comparto legno è calata nella nostra regione del 10,4%. La media nazionale vede un calo ancora peggiore. L'analisi è dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Istat. Anche le esportazioni del settore legno nei primi 9 mesi del 2023 sono diminuite rispetto all'anno precedente. Meno 22% in regione per il comparto del legno e meno 10,5% per quello del mobile. Secondo Confindustria il calo sul mercato interno, oltre ad essere fisiologico dopo il forte rimbalzo post-Covid, è dipeso anche dalla riduzione degli incentivi legati all'edilizia, e mentre per l'export si lega alla generale contrazione del commercio mondiale dovuta anche alle tensioni geopolitiche, si intravedono però i primi segnali di ripartenza con gli ordini in risalita del 3% in regione, che sale a 3,1% a Udine rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È in corso di discussione il meccanismo di regolamentazione della cosiddetta patente a punti per la sicurezza nei cantieri, al via dal prossimo ottobre. Si va verso una distinzione tra imprese qualificate o meno. Lo spartiacque sulla patente a punti per la sicurezza sul lavoro nei cantieri, prevista dal governo, è la qualificazione SOA, ossia la qualificazione basata su un sistema di controlli che autorizza un'azienda del settore delle costruzioni a concorrere alle gare d'appalto pubbliche. Le imprese che ne sono in possesso non sono tenute ad avere la patente a punti. In Friuli Venezia Giulia, come in Italia, stima l'associazione dei costruttori, sono meno di un quarto del totale delle imprese dell'edilizia. Per il vicepresidente di ANCE Nazionale di Confindustria Udine, Piero Petrucco, una distinzione importante perché premia la qualificazione delle imprese organizzate e strutturate che hanno una storia alle spalle in cui la sicurezza è un fattore centrale. Una scelta, secondo Petrucco, che va mantenuta e confermata ai tavoli aperti dal Ministero del Lavoro con le associazioni di categoria e i sindacati, che dovranno mettere a punto il nuovo sistema da qui a ottobre, quando la patente entrerà in vigore. Diversamente, una patente a punti generalizzata per tutti ci vede fortemente contrari, ribadisce il vicepresidente nazionale dei costruttori. In assenza di una regolamentazione adeguata c'è per Petrucco il rischio di mancare gli obiettivi che la patente a punti si propone a discapito delle imprese più serie. Da evitare, ad esempio, la scappatoia che ogni anno muoiano e nascano delle aziende che ripartono sempre col punteggio pieno. Importante per Petrucco fare un sistema premiante per le aziende che investono in organizzazione e formazione e per quelle che si sono già dotate di sistemi di gestione della sicurezza certificati secondo gli standard internazionali. Un punto sul quale converge anche il presidente regionale di ANCE, Marco Bertuzzo, che richiama il fatto che molte aziende in regione sono controllate e verificate periodicamente con esito positivo ed auspica che ciò possa divenire un valore aggiunto piuttosto che una patente a punti con funzione esclusivamente punitiva. Bene per Bertuzzo lo spartiacque della SOA, ma in prospettiva, aggiunge, serve dotare di un adeguato sistema di certificazione anche il mondo degli appalti privati. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Si inaugura oggi il rinnovato distaccamento dei vigili del fuoco di Lignano Sabbia d'Oro. Sono state portate a termine importanti opere di manutenzione straordinaria ed è stata realizzata una nuova autorimessa. 18 volontari dei Vigili del Fuoco a Lignano Sabbia d'Oro reperibili tutti i giorni e che tutti i giorni vengono chiamati e hanno 10 minuti di tempo per mollare tutto, anche se sono al lavoro, e intervenire. Incendi, fughe di gas, soccorso persone, anche in mare, nella laguna di Marano o fino a Bibione. C'è chi di professione fa il carpentiere, chi lavora in ufficio. L'anno scorso sono stati allertati 321 volte, un numero in aumento rispetto alla media delle 280 uscite annuali, a cui si sommano altre 150 uscite in estate, in quel mese e mezzo in cui il distaccamento dei Vigili del Fuoco viene potenziato da una squadra permanente tra luglio e agosto, con 5 pompieri e mezzi aggiuntivi per gestire le numerose chiamate estive, quando Lignano Sabbia d'Oro diventa praticamente una metropoli. Da oggi il distaccamento locale, accanto alla sede della Protezione Civile, potrà contare su una nuova autorimessa riscaldata da 300 metri quadrati, un magazzino, locali spogliatoi e uffici ristrutturati. Grazie a 780.000 euro tutti fondi comunali. Alle 14 l'inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente Fedriga, del sottosegretario agli interni con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, del capo del Corpo Nazionale Carlo Dall'Oppio e diverse altre autorità. Nuovi spazi che permetteranno più efficienza ai pompieri che operano sul territorio e di ospitare un nuovo mezzo antincendio boschivo. Tra incidenti, contingenze, ma soprattutto gli effetti del cambiamento climatico, alcune tipologie di interventi hanno fatto segnare un incremento del 500%. Lignano Sabbia d'Oro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 15 gradi, a Pordenone 16 e mezzo, a Gorizia 15 e mezzo, Udine 14 gradi e mezzo, Tolmezzo 10, Forni di Sopra e Piancavallo 7, Tarvisio e Sappada 5, Monte Zoncolan 3 gradi, Monte Lussari 0. Tornando sulla costa, Lignano e Grado, 15 gradi e mezzo. Le previsioni oggi pomeriggio, cielo da variabile a nuvoloso, le temperature massime in pianura restano decisamente elevate per il periodo. Domani ancora nuvoloso, con piogge da deboli a moderate, quota neve oltre i 1500 metri, verso sera schiarite a partire dalla costa. Continua l'impegno dell'Associazione di Volontariato Sociosanitaria Indipendente, a partiti, CADONC, che offre assistenza sanitaria gratuita a tutte le persone, sia stranieri sia italiani, cui non è garantito l'accesso alle cure mediche. A Trieste, DONC è particolarmente attiva nei confronti dei migranti, anche grazie al suo camper attrezzato come ambulatorio mobile. L'attività dei medici volontari è stata presentata a Prosecco. Garantire il diritto a cure mediche gratuite a tutti, soprattutto ai più fragili che non hanno accesso al sistema sanitario nazionale, come i migranti in arrivo dalla rotta balcanica. È quello che dal 2012 fanno a Trieste i volontari di DONC Humanitarian Medicine, che si sono presentati agli abitanti dell'Altopiano Carsico in un incontro a Prosecco. Stefano Bardari, presidente di DONC. Siamo partiti da due operatori e adesso siamo più di 60 medici e 10 infermieri e operiamo in oltre 11 ambulatori a settimana, oltre 4.000 visite l'anno. Facendo questa attività porti a casa molto più di quanto dai. Da Kabul a Camposacro, migrazioni, salute pubblica e integrazione. Questo è il titolo della serata in cui medici e infermieri hanno raccontato che cosa vedono durante le visite effettuate negli ambulatori presidiati giornalmente. Il centro diurno di San Martino al Campo in via Udine a Trieste, i centri di accoglienza Campo Scout di Santa Croce e Casa Malala a Fernetti e l'ambulatorio mobile Donkey che si sposta tra Gradisca di Sonzo e Trieste. E hanno poi approfondito la situazione di tre dei paesi, Pakistan, Afghanistan e Bangladesh, da cui arriva la maggior parte delle persone. Francesco Zanottin, responsabile progetti di DONC. Conviene aiutarli perché sono i cittadini europei di domani, già di oggi, e dobbiamo aiutarli ad integrarsi per essere dei buoni cittadini. E molti di loro vengono da esperienze di vita davvero molto traumatiche e devono essere aiutati a collegare i fili di questo vissuto per cominciare con fiducia la loro vita in Europa, nell'interesse anche nostro. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare. In Italia ne soffrono oltre 2 milioni di persone. Una su cinque è un bambino. L'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste è centro di riferimento per queste patologie. Un migliaio di bambini in cura. Uniamo, la Federazione Italiana Malattie Rare, da 25 anni lavora per migliorare la loro qualità di vita. In questi giorni è protagonista di diverse iniziative di sensibilizzazione. Per saperne di più è possibile visitare il sito web uniamo.org. A Udine invece si svolge oggi il congresso nazionale della Società per lo studio delle malattie dell'esofago all'ospedale universitario Santa Maria della Misericordia, sempre più centro di riferimento per trattare le malattie rare come l'acalasia, il disturbo legato alla difficoltà di ingerire il cibo. Creare spettacoli di teatro o danza includendo le persone con disabilità per incoraggiare la loro presenza sul palco ma anche fra il pubblico. Zero gradi di separazione è il progetto di formazione che vuole guidare in questa direzione chi opera nel sociale. 30 i posti a disposizione nella sala polifunzionale Spazio 35 di Udine. Il corso comincia oggi alle 14 e termina sabato. Miriam Paschini, curatrice del progetto, ci spiega le difficoltà che possono esserci e quali azioni concrete si possono fare per raggiungere una maggiore inclusività dell'arte. Una cosa molto semplice per una persona cieca che viene a teatro, una cosa molto bella che gli si può far fare è una visita tattile della scena, in maniera che si possa rendere conto delle distanze o una descrizione dei vari personaggi prima che si siedano fra il pubblico. Per l'accesso alle persone sorde basta anche la sottotitolazione e un'accoglienza, non serve per forza sapere la LIS, ma basta anche una carta e penna per rispondere a dei sordi, solo che non ci viene in mente, no? Certo. Quando accogliamo un pubblico di questo genere. Perché noi pensiamo alla disabilità, principalmente l'immagine è quella della disabilità fisica, no? Quindi della sedia a rotelle, e molto spesso i nostri teatri, i nostri spazi culturali sono trattati in maniera coerente, ecco, con questo tipo di disabilità, e ci sono delle parti del pubblico che sono riservate a queste persone perché possono avere dello spazio di mobilità e di autonomia, ma a volte non ci si rende conto che ci sono altri tipi di disabilità come quelle sensoriali, in cui la vicinanza al palco è fondamentale per sentire e per vedere bene. E anche le persone anziane hanno difficoltà di movimento, hanno difficoltà di udito, di visione, e per questo è importante gestire una disabilità, perché poi riguarda tutti, questo è il concetto. Si chiama Margherita delle Stelle, andrà in onda il 5 marzo su Rai 1, il film per la TV dedicato alla giovane Margherita Hack, un romanzo per immagini sugli anni di formazione della grande scienziata a Roma, la presentazione alla stampa. Sentiamo. La Margherita Hack descritta nel film per la TV che vedremo martedì prossimo è una ragazzina che dai genitori ha imparato a rompere gli schemi a partire da quelli generati dall'ideologia fascista. A darle voce e corpo, Cristiana Capotondi. Margherita Hack è stata formata dai genitori con il valore della libertà, e questo valore all'inizio la affaticava molto, perché la poneva già in un'età molto giovane nella necessità di fare delle scelte, però le ha insegnato anche la responsabilità, quindi credo che ne abbia fatto uno straordinario uso, perché si è sentita libera di poter studiare una materia che non era per le donne, e di decidere di non fare figli e quindi poi in qualche modo di essere anche responsabile delle proprie scelte. Una vita scandita da tempi forti, come la decisione di difendere la sua insegnante ebrea rischiando di farsi cacciare dal liceo, la scoperta della passione per la ricerca e la storia d'amore tanto felice quanto fuori dagli schemi con Aldo, interpretato da Flavio Parenti. Affrontando le scene poi si viene a scoprire l'umanità che c'era dietro a quelle persone, che sono persone come noi, che hanno i loro sogni, le loro ambizioni, le loro fragilità, le loro difficoltà. Un racconto liberamente ispirato all'autobiografia Nove vite come i gatti, scritta assieme a Federico Taddia, con il regista Giulio Bose, che spiega così la decisione di portarlo sul piccolo schermo. La volontà di divulgare al grande pubblico una grande lezione sia di applicazione, studio e di, come dire, lavoro, fedeltà etica del lavoro, ma sia di indipendenza e di autonomia in un mondo in cui appunto le donne non avevano nessuna indipendenza e nessuna autonomia. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Va la scrittrice Asar Nafisi, la 17ª edizione del premio La Storia in un Romanzo, riconoscimento nato dalla collaborazione fra Fondazione Pordenone Legge.it e Link Media Festival di Trieste. Lo annuncia il Festival Pordenone Legge, che lancia così il conto alla rovescia per la sua 25ª edizione, in programma dal 18 al 22 settembre. Asar Nafisi riceverà il premio sabato 21 settembre al Teatro Verdi di Pordenone. Alla cerimonia seguirà l'incontro con il pubblico intorno ai legami fra il romanzo e la storia. E sarà questa l'occasione per presentare il nuovo libro della scrittrice, Leggere pericolosamente, il potere sovversivo della letteratura, in uscita il 5 marzo per Adelphi. Il Teatro Verdi di Pordenone comunica un cambio alla guida della programmazione musicale del teatro, che ha visto impegnato in quest'ultima stagione il pianista Roberto Prosseda, impossibilitato per motivi familiari a proseguire oltre la scadenza naturale del suo contratto, fissata per il prossimo 31 agosto. Al suo posto dall'autunno prenderà le redini della programmazione musicale del Verdi il pianista Alessandro Taverna, artista che si esibisce regolarmente nelle principali istituzioni musicali internazionali. Gli appuntamenti: la pluripremiata scrittrice Maddalena Finger le presenta il suo ultimo romanzo Pudore alla Libreria Moderna Udinese alle 18.30. Trieste è la città dove si intrecciano i Balcani e la Mitteleuropa, e questo è il tema al centro dell'ultimo libro di Federica Manzon, Alma, appena pubblicato da Feltrinelli. Ne parla alle 18 alla libreria Ubic. Letture d'arte per bambini al Museo Revoltella di Trieste alle 17, protagonista René Magritte. Torna L'oro del diavolo al Teatro Verdi di Trieste fino al 9 marzo, opera tratta dalla fiaba I tre capelli d'oro del diavolo, scritta dai fratelli Grimm, alle 18. Emilio Solfrizzi e Carlotta Anatoli sono al Teatro Bobbio di Trieste da stasera al 3 marzo con la commedia L'anatra all'arancia. Il conduttore TV e comico Francesco De Carlo è al Teatro Miela alle 21 a Trieste con Bocca mia taci. Un attore solo sul palco che dà vita a 15 personaggi è Paolo Nani in La lettera al Teatro Comunale a Feletto Umberto alle 20:45. Il martirio infinito del confine orientale d'Italia, raccontato con decine di immagini illustrate dal professore di chimica dell'Università di Udine Paolo Strazzolini, alle 20:30 ad Aiello del Friuli. Cocorico Tapes, il documentario sul tempio della musica techno anni 90, arriva a Cinema Zero di Pordenone alle 20:45 e interviene il regista Francesco Tavella. Le opere in italiano del triestino Alojz Rebula, uno dei maggiori scrittori sloveni scomparso nel 2018, sono al centro di un incontro nel Centro Culturale Sloveno di Via Donizetti alle 18. Alle 12:56 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Francesca Terranova e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Federico Comar, Mauro Cumin e Vittoria Protti. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.